8 minuti per morire, 3 giorni per accusare il poliziotto, 6 giorni di scontri. Gli Stati Uniti alla resa dei conti. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. That lack of humanity, that lack of respect for black life is what has enraged so many people. We don't need a dumbass president repeating what segregationists said. You start looting, we start shooting. But the problem is some officers black and some people gonna shoot back. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Sono le 16.08 in questo esatto istante. La squadra: Antonio Taglia, Ilaria Sesana, Alessandro Schirano, Andrea Macchioni, Danilo Di Trani in assistenza e in regia ritroviamo Roberta Frisani. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti per il tema che è al centro di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. L'avete sentito anche dal GR, 4.000 arresti solo nel weekend in varie città statunitensi, scontri con morti, feriti. La morte di George Floyd costringe gli States a confrontarsi inesorabilmente con lo stato di salute della sua società e della sua politica, e lo fa forse nel momento peggiore. Covid, crisi economica, un presidente che non pare capace di gestire efficacemente i diversi fronti. Che cosa accadrà adesso? Questa è la domanda che tutti si fanno, che noi ci facciamo e che io pongo a voi. 349-238-6666, ma anche Facebook e Twitter. La prima cosa da fare però è sfogliare i nostri dossier. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666. Tra gli ascoltatori ci sono polpastrelli particolarmente agili e veloci. Tra pochissimo sarò da voi. Fatemi prima però sfogliare il nostro brevissimo plico di dossier che sono qui sul tavolo della redazione. Il primo ci porta in Libia perché domenica vi è stato un attacco missilistico che ha colpito un quartiere residenziale densamente abitato nel centro di Tripoli, 5 vittime e 12 feriti. La notizia arriva dal governo di al-Sarraj, che punta il dito, neanche a dirlo, contro le forze guidate dal generale Khalifa Haftar. L'attacco coincide con l'intensificarsi degli scontri nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale di Mitiga. Sebbene la battaglia per Tripoli, che è iniziata ormai un anno fa, abbia raggiunto una situazione di stallo sul terreno, ricordate nei giorni scorsi abbiamo raccontato di una ritirata quantomeno tattica anche da parte dei mercenari russi della Wagner e delle forze legate ad Haftar, ancora si combatte. Il conflitto, è il momento ai noi di fare anche un po' di bilanci, ha ucciso centinaia di persone, molte delle quali sono, dobbiamo ricordarlo, civili, e ha costretto almeno 200.000 civili a abbandonare le proprie abitazioni, rendendoli tecnicamente quelli che si chiamano sfollati interni. I morti sono molto spesso civili, può sembrare strano, ma la front line libica è molto spesso costituita da piccole lingue d'asfalto nei centri densamente abitati, con poche centinaia di uomini, di soldati, di militari o di miliziani che si scontrano, e per cui a farne le spese molto spesso sono i civili. E poi in Burkina Faso viaggiamo molto più a sud, verso l'Africa subsahariana, ci attestiamo sulla fascia del Sahel. Un altro weekend di sangue per il piccolo ma importantissimo, nevralgico in questo momento paese della fascia saheliana. Due gli attacchi: il primo venerdì un gruppo armato non identificato ha attaccato un convoglio di commercianti, siamo nella provincia di Lorum nel nord del paese, 15 morti, diversi feriti e parecchi dispersi. Sabato invece almeno 30 persone uccise in un attacco che sembra avere tutte le caratteristiche di un attacco jihadista in un mercato di una cittadina nella parte orientale del Burkina Faso. Secondo le parole di un testimone raggiunto dalla stampa locale, gli aggressori sono arrivati nel mercato a bordo di piccole moto, e questa è la tecnica utilizzata da tutte le bande jihadiste in quella zona, e hanno cominciato a sparare soprattutto su coloro che tentavano di fuggire. Secondo le stime dei principali osservatori internazionali riportate dai grandi media, su tutti Al Jazeera, che segue particolarmente da vicino quell'area, più di 900 persone sono state uccise da gruppi armati negli ultimi 5 anni. Gli sfollati interni qui arrivano a 860.000. E poi ci portiamo in Libano, perché si avvicina il piccolo importante paese del vicino Oriente a una riapertura dopo l'epidemia di Covid-19. L'8 giugno si riapre l'aeroporto internazionale. Ecco, con la riapertura si riaccendono anche le proteste nella notte. Tensioni e scontri a Beirut, a Tripoli, siamo più nord, nella valle della Bekaa e siamo più a sud, roccaforte di Hezbollah. I media locali ne danno notizia, ricordando che sostanzialmente quelle proteste che erano partite, ricordate, lo scorso 24 ottobre contro la corruzione, contro un sistema malato, contro un'economia ormai al collasso, sostanzialmente il Libano è in default ormai da settimane, ebbene hanno ripreso vigore proprio nelle ultime 24 ore. Adesso il dito è puntato contro il Presidente della Repubblica Michel Aoun, però ricordiamo che il bello o il brutto, a seconda dei manifestanti o delle forze governative che dovranno gestire questa imponente manifestazione, deve ancora venire, perché sui social network c'è un tantam e un passaparola molto diffuso. Si chiama a una manifestazione massiccia il 6 giugno al centro della capitale Beirut, e quel giorno è stato ribattezzato il giorno della collera. Questi nostri dossier internazionali sono fatti, sono notizie, sono argomenti che trattiamo regolarmente qui nel Sul Luogo Lontano, o che diventeranno prossime puntate. Ma adesso, Roberta, andiamo negli Stati Uniti. Forget about policing. Look at the toll of the pandemic. More people of color are getting sick and dying. Why? Less access to care. More minorities are losing their jobs at a faster rate. Yet they make up the higher percentage of those at work right now in jobs deemed essential. Imagine how that feels. Helping more and being helped less. This is America. It's poor kids that we're sending to prison, too many drawn from African American and Latino communities. So the prison now stands firmly between the young people trying to make it and the fulfillment of the American dream. This is America. Don't got you slipping up. The original sin of this country still stains our nation today. And sometimes we manage to overlook it. We just push forward with a thousand other tasks in our daily life. But it's always there. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Roberta Fisani così ci porta negli Stati Uniti, dove c'è un fiorire di commenti, di dichiarazioni, di controdichiarazioni, su tutte evidentemente quelle del presidente statunitense Donald Trump, che come d'abitudine si affida al social, contro il quale peraltro ha dichiarato guerra, proprio quel Twitter che lui tanto ama e preferisce. Intanto la CNN, a cui sto buttando l'occhio, da notizia di due poliziotti che sono stati licenziati durante le proteste di Atlanta per un eccessivo uso della forza. Tra pochissimo arriverò anche ai vostri commenti al 349-238-6666, però in questo collage sonoro in cui avete sentito tutte le dinamiche, il rancore, il risentimento, il dolore della comunità afroamericana e non solo, ci sono stati anche riflessi politici. Il primo arriva dalla voce di Andrea Jenkins, consigliere comunale a Minneapolis, forse la prima figura transgender politica di spicco negli Stati Uniti. That lack of humanity, that lack of respect for black life is what has enraged so many people. E come sentite, emerge con forza che uno dei motivi che ha scatenato la violenza di queste proteste è la mancanza di umanità, the lack of humanity, dice Andrea Jenkins, e il rispetto per la vita di un afroamericano. Non le manda certo a dire la politica e attivista a cui ha fatto eco Joe Biden, candidato per la corsa alle presidenziali di novembre. Cosa ha detto Biden? Sostanzialmente ha sottolineato la brutalità del gesto. Non si è tolto solamente la vita all'ennesimo cittadino afroamericano, ma si è voluto negare l'umanità stessa di George Floyd. An act of brutality so elemental, it did more than deny one more black man in America his civil rights and his human rights. It denied him of his very humanity, it denied him of his life. We'll be right back. Dalla voce della Jenkins e di Biden a quella che arriva sotto forma di testo al 349-238-6666. Trump è bene che si svegli, scrive un ascoltatore, proclami lo Stato e la legge marziale, altrimenti perderà definitivamente il controllo, deve far intervenire i militari, così un ascoltatore. In realtà, gentile ascoltatore, Trump lo ha già minacciato di far intervenire dopo la Guardia Nazionale anche l'esercito, vedremo. Peraltro ha destato scalpore e impressione il fatto che lo stesso Trump si sia dovuto rifugiare per alcune ore nel bunker della Casa Bianca, una Casa Bianca che era circondata dai manifestanti. Qualcun altro mi chiede, ma siamo fuori tema, i palestinesi non hanno diritto di cronaca, parliamo molto spesso delle questioni israelo-palestinese, gentile ascoltatore. Parlerete anche del fenomeno antifa, soldato per fare danni e strumentalizzare le proteste, andremo anche nello specifico. Perché intanto ve l'anticipo, dovete sapere, gentili ascoltatrici e ascoltatori, che in un tweet Trump ha addossato sostanzialmente le colpe di questa deriva violenta delle proteste proprio al movimento antifa, che si rifà all'antifascismo. È una galassia non ben osservata, molto fluida. Sostanzialmente, secondo Donald Trump, sarebbero loro le cause di questa di questo eccesso di violenza da parte dei manifestanti, e qualcuno, come al solito, evidentemente mi stigmatizza dicendo che io sono troppo anti-Trump. Dicevamo, le voci degli ascoltatori, ma anche quelle degli Stati Uniti, che si interrogano, e sostanzialmente, forse ho esagerato nei titoli, ma siamo forse alla resa dei conti, è un problema annoso, non soltanto quello del razzismo latente e strisciante, ma anche quello dei metodi, della brutalità, delle forze dell'ordine, ne abbiamo parlato anche venerdì, tanto che Joe Biden lo ha definito a tutti gli effetti un cancro. The original sin of this country still stains our nation today, and sometimes we manage to overlook it. We just push forward with a thousand other tasks in our daily life, but it's always there. E qui Biden torna indietro, dice, è un peccato originale che macchia ancora questa nazione. Chris Cuomo, fratello del governatore di New York, giornalista di punta della CNN, sentite come descrive gli Stati Uniti d'America. Dice, sostanzialmente sono due. In one America, people rage for the freedom to get a haircut and a tattoo. In un'America ci sono persone arrabbiate perché non possono farsi un tatuaggio o tagliarsi i capelli. L'altra America si arrabbia solo per essere considerata e ascoltata. C'è un'America che dice non indosseremo mascherine perché sono scomode quando si corre ed è un affronto alla libertà. L'altra America invece deve fare i conti con la paura di essere uccisa quando va a correre. Un'America, continua Cuomo, insiste che il football è sacrosanto e che non ci devono essere proteste di persone che si inginocchiano. Figli di puttana li chiamano, così ha detto Cuomo, ma non si arrabbia per un uomo inginocchiato sul collo di un altro uomo di colore. Allora, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Mario Del Pero, professore a Sciences Po, storia internazionale, e in particolare si occupa della politica estera degli statunitensi. Professore Del Pero, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, siamo abituati, ai noi tristemente abituati, a scene di violenze e di proteste susseguenti a violenze della polizia verso la popolazione afroamericana. C'è qualcosa di diverso questa volta? Sbaglio nel dire che questa volta è davvero una resa dei conti, nel senso che la società americana deve interrogarsi a livello sociale e a livello politico? C'è un contesto politico diverso, c'è un paese polarizzato e diviso in due campi, due elettorati, due schieramenti politici impermeabili l'uno all'altro, incapaci di collaborare nel momento in cui ci dovrebbe essere, diciamo così, un'azione bipartisan unificante che cerca di dare una risposta e anche di placare le proteste, evitandone una deriva violenta come purtroppo sembra accadere. C'è un presidente che, da simbolo di unità nazionale e di attore di unità nazionale, agisce invece come, diciamo così, piromane della politica, come arsonist, come incendiario, e quindi alimenta e acutizza questa divisione e queste fratture. Trump non è responsabile della violenza della polizia a Minneapolis, Trump non è responsabile dei disordini che vediamo oggi, come li abbiamo visti a Ferguson nel 2014, sì, come li abbiamo visti a Los Angeles nel 92, però Trump è la figura meno idonea, meno capace di dare una risposta, della risposta che dovrebbe venire in primis dal pulpito presidenziale. Vedere Trump che accusa con parole anche grossolane e grevi il sindaco di Minneapolis, laddove tra autorità federale e autorità municipali ci dovrebbe essere convergenza, unità di vedute e piena collaborazione, da, come dire, una cifra di quanto inadeguato sia questo presidente rispetto a una situazione a tutti gli effetti drammatica. La voce, il commento, l'analisi soprattutto di Mario Del Pero lo ricordava all'inizio: 8 minuti per porre fine alla vita di George Floyd, 3 giorni per incolpare, accusare ufficialmente il poliziotto che lo ha nel corso di quei lunghi 8 minuti ucciso. Omicidio preterintenzionale, questa è l'accusa, gli altri 3 erano distanti pochi centimetri e non hanno fatto nulla per fermare quello che stava accadendo. E poi 6 giorni, 6 lunghi giorni, o meglio dovrei dire notti, di proteste. Evidentemente ci sono state anche delle violenze che i manifestanti non hanno saputo gestire. Venerdì raccontavamo proprio con le voci di chi era lì a Minneapolis come nei primi giorni ancora i manifestanti riuscissero in qualche modo a tenere unificata quella che doveva essere un'anima totalmente pacifica della protesta. Poi evidentemente anche infiltrazioni, secondo alcuni analisti, hanno portato a una forte violenza che è sicuramente esecrabile. Però, professor Del Pero, com'è possibile che la società e la politica americana non abbiano trovato, nel corso delle varie ere politiche, delle varie presidenze degli Stati Uniti, un momento in cui interrogarsi e riflettere sul sciogliere questi nodi, su tutti quelli che, ripeto, la Jenkins ma anche Biden chiamano cancro, chiamano peccato atavico, il razzismo negli Stati Uniti? La democrazia statunitense, la più antica democrazia al mondo, si fonda su quel peccato, su quel vulnus. Nasce sulla questione razziale, su quella che noi studiosi chiamiamo la linea del colore, in un paese che accetta e istituzionalizza la schiavitù, che costruisce poi un sistema di segregazione razziale e che non riesce mai più a ricomporla, quella frattura. Dove ancora oggi, in termini di reddito, di occupazione, di possibilità di durata della vita media, di livelli di istruzione, di popolazione carceraria, prenda qualsiasi parametro che ci indica lo stato di benessere di un segmento della popolazione americana, tutti questi indicatori ci mostrano il persistere di una separazione razziale, la profondità di questa linea del colore che continua ad agire. Il paese in realtà si è interrogato più volte, ha cercato di darvi risposte. Se prendiamo alcuni di questi parametri, i miglioramenti ci sono stati. La popolazione carceraria nera è diminuita di quasi un terzo negli ultimi 15 anni. I livelli di violenza urbana sono oggi molto molto lontani dai picchi di fine anni 70 o di metà anni 90. Progressi ci sono stati, ma sono stati sempre progressi interrotti, in parte rovesciati. E oggi abbiamo un presidente che, diciamo così, ha cavalcato il malcontento di un pezzo di America bianca, che sogna il ripristino di gerarchie razziali scalfibili, che sogna una vecchia America dove i neri stavano al loro posto e non si sognavano certo di candidarsi alla presidenza, per esempio. La voce di Mario Del Pero, per cercare di capire quanto la crisi che stiamo vedendo, osservando a distanza insomma di parecchie migliaia di chilometri, c'è un oceano che ci distanzia, a volte facciamo anche un po' fatica a comprendere le dinamiche statunitensi, così come le regole di ingaggio della polizia, così come quella grande libertà nel possesso di armi da fuoco, che sicuramente è stato un effetto, ha contribuito al bilancio della violenza di queste 6 notti. Vi sono state sparatorie, non si capisce chi ha sparato su chi, qualcosa che per noi è veramente, francamente, difficile. Qualcuno anche con epiteti non particolarmente raffinati, e invito invece gli ascoltatori a usarli, altrimenti non potrò leggere i loro messaggi, si chiedono: quando c'era Obama era tutto bello, ma nessuno l'ha mai detto. Noi stiamo ragionando su quanto, e il professor Del Pero stava proprio rispondendo a questa domanda, quanto e come la società americana negli ultimi 40 anni si sia interrogata. La tesi del professor Del Pero è che semplicemente Donald Trump, con le sue dichiarazioni, stia gettando olio sul fuoco e non acqua sul fuoco. La questione razziale negli Stati Uniti, scrive un ascoltatore, è una bomba orologeria, si dice da 40 anni, ovvio, quel poliziotto è un assassino, ma questo è quello che rischiano l'Italia e l'Europa se continuano a far entrare africani e musulmani senza limiti in modo irresponsabile. Io le chiederei, gentile ascoltatore, quanti della comunità afroamericana sono musulmani, per esempio. Stiamo anche attenti con le etichette, stiamo attenti a queste analisi un po' superficiali che rischiano, francamente, di gettare fumo su un'analisi che, siccome la situazione è molto complessa, credo che dobbiamo essere molto ferri anche nell'utilizzo delle parole. 349-238-6666, per voi torno dal professor Mario Del Pero, Po. Nel frattempo Antonio Tale mi segnala che il capo della polizia di Minneapolis, Medaria Radondo, ha dichiarato: altri tre funzionari di polizia sono complici della morte di George Floyd, segno che anche la macchina giudiziaria evidentemente si sta muovendo. Professor Del Pero, ma perché si deve arrivare a questo punto per come dire, far muovere anche non soltanto lo sdegno sociale, ma anche quello, mi passi il termine, giudiziario? Il giudice si è mosso accusando di omicidio colposo il poliziotto dopo tre giorni di proteste. Sarebbe stato altrimenti se non vi fossero state queste proteste? Diciamo che oggi i poliziotti e le forze di polizia sono soggetti a monitoraggi, a controlli e supervisioni più stringenti. La gran parte delle forze di polizia locali è obbligata a portare le telecamere e le telecamerine in azione quando sono in servizio per documentare, diciamo così, il loro comportamento e verificare che rispetti determinati parametri e determinate regole di ingaggio laddove ci sono delle situazioni di difficoltà. La polizia americana è spesso nei contesti urbani chiamata a operare in condizioni molto molto complicate, di violenza estrema, lo ricordava lei, di diffusione facile di armi da fuoco, e la polizia, le forze di polizia, soprattutto dopo i picchi di criminalità urbana, di microcriminalità urbana degli anni 80 e 90, ha avuto mano libera per almeno un paio di decenni. Le politiche di tolleranza zero adottate in risposta a questi alti livelli di criminalità sono politiche che raccoglievano un consenso elevatissimo, le sostenne anche il senatore Biden, ed è qualcosa che potrebbe pagare oggi Biden, le sostenne anche il senatore Biden all'inizio anni 90, e io credo che per certi aspetti viviamo ancora sotto, diciamo così, l'onda lunga di quelle politiche di tolleranza zero che sono state in parte abbandonate, ma che hanno socializzato, hanno formato corpi di poliziotti negli ultimi decenni. Professor Del Pero, la invito a stare con noi. Andiamo un attimo a sentire come stanno andando le borse e poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Siamo costretti, gioco forza, ancora una volta a tornare negli Stati Uniti perché non si sono placate le proteste dopo la morte di Floyd, dopo quegli 8 minuti ripresi, immortalati da un telefonino, sparati sui social, che hanno creato tanto sdegno e hanno costretto in qualche modo a tornare su una serie di questioni, su tutte, la questione della comunità afroamericana, la questione razziale. Tanti politici sono intervenuti evidentemente, e come è chiaro, in vista di novembre si tenta di monetizzare anche situazioni dolorose come queste. Quello che c'è di nuovo però è forse che per la prima volta, e questa è la tesi del professor Mario Del Pero, o quantomeno recentemente, il presidente statunitense, invece di chiamare a un'unità nazionale, di creare un clima di accordo anche con gli amministratori locali, sta sostanzialmente gettando acqua sul fuoco, olio sul fuoco. L'ha fatto peraltro dai primi minuti con dei tweet, ricordate quello, quando si cominciano a fare saccheggi noi cominciamo a sparare, quello ha destato particolare sgomento fra tutti gli osservatori. C'è qualcuno che al 349-238-6666 continua a scrivermi che non avremmo fatto gli stessi commenti se fosse stato Obama alla presidenza. Qua ci stiamo interrogando su come la politica, la società americana, ma anche l'economia, perché ci sono dei fondamentali evidentemente anche economici che giustificano queste disparità, queste Americhe a due velocità. Ci stiamo interrogando su perché l'America non stia riuscendo a uscire da questo impasse. Forse, come dice il professor Del Pero, è così innata, affonda le sue radici, la sua stessa esistenza su comunità a diverse velocità, che risulta veramente difficile fare un passo in avanti. Qualcuno tra gli ascoltatori stigmatizza il livello di razzismo di alcuni altri messaggi di ascoltatori. Intanto una collega e amica mi segnala su Twitter che, e non è la prima volta in queste ore, perché anche troupe televisive sono state attaccate dalla polizia. Adam Gray, che è un fotografo britannico, è stato arrestato a New York mentre stava facendo il suo lavoro, è stato arrestato, buttato a faccia in giù sul selciato, ammanettato, ha detto sono un giornalista, ha tentato di mostrare la press card, cioè il tesserino da giornalista, non è servito a nulla, gli hanno strappato la mascherina, quella che noi tutti usiamo per il Covid-19, è stato messo in una stanza con 50-70 persone senza mascherina e senza rispetto della distanza di sicurezza. Fatemi però tornare dal professor Mario Del Primo, non prima di aver fotografato, visto che ci sono tanti messaggi in questo senso, quella che è la drammatica situazione per la comunità afroamericana quando per caso magari incrocia un poliziotto. Sentite. Negli Stati Uniti, in media, più di 2 persone al giorno perdono la vita per un colpo d'arma da fuoco sparato da agenti di polizia in servizio. Nel corso del 2019 il totale delle vittime è stato di 1014. Nel 2018 erano state 992 e nei primi 5 mesi del 2020 il numero delle vittime ha già toccato quota 400. A fornire i dati è il Washington Post, che da 5 anni registra questi episodi per colmare una lacuna nella raccolta ufficiale dei dati da parte delle autorità statunitensi. Dal 2015 a oggi, le persone uccise nel corso di azioni di polizia sono state più di 5.000. In numeri assoluti, la maggior parte delle vittime sono cittadini bianchi, ma un'analisi dei dati in relazione alla composizione etnica della popolazione mette in luce una situazione più complessa. Gli afroamericani, infatti, rappresentano il 23% delle persone uccise da agenti di polizia, sebbene siano solo il 13% della popolazione degli Stati Uniti. Una recente indagine pubblicata sulla rivista ufficiale dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti mette in evidenza come il rischio di essere ucciso da un agente di polizia sia molto più elevato per le persone di colore. Rispetto ai cittadini bianchi, infatti, gli uomini di colore sono 2,5 volte più a rischio, mentre per le donne di colore il rischio di essere uccise da un agente di polizia è 1,4 volte più elevato rispetto alle donne bianche. Sebbene i tassi di detenzione negli Stati Uniti siano diminuiti nel corso degli ultimi 20 anni, la popolazione di colore è ancora sovrarappresentata. Un report del Council on Criminal Justice, think tank che analizza i dati sul sistema penale statunitense, evidenzia come nel 2016 i neri siano finiti in carcere a un tasso 5 volte superiore rispetto ai bianchi e con pene detentive più lunghe. Si tratta statisticamente di una maggiore tendenza a delinquere. Tra i motivi che alimentano queste differenze, secondo il think tank, ci sono la maggiore povertà della popolazione afroamericana e quindi l'impossibilità di pagarsi una difesa adeguata, ma anche la tendenza di un'ampia fascia dei procuratori all'applicazione di pene detentive, pur in presenza di reati minori. Questa è la fotografia di alcuni dati che inquietano, ma che spiegano forse un po' meglio le dinamiche della società, di una parte della società statunitense. Professor Mario Del Piero, tanti messaggi che arrivano al 349-238-6666, alcuni si chiedono, altri invece affermano con invidiabile sicurezza che gli afroamericani delinquono più dei bianchi. Ci aiuta a capire meglio qual è quello strano cocktail che fa sì che la popolazione carceraria sia soprattutto afroamericana nelle carceri statunitensi? Sono più delinquenti? Statisticamente sì, dopodiché ovviamente sono tassi che vanno parametrati al contesto sociale, alle condizioni in cui di vita delle persone, alle dinamiche storiche che abbiamo così sommariamente menzionato. Sì. E è chiaro che rimane anche il retaggio di un sistema giudiziario e penitenziario che discriminava sulla base della razza. Nel vostro report ricordavate ad esempio la difficoltà di avere un determinato tipo di assistenza legale, la difficoltà di avere risorse che magari permettono di uscire su cauzione, di costruirsi una linea di difesa poi spendibile al processo e così via. È chiaro che il contesto storico e sociale ci aiuta a capire molto, dopodiché statisticamente, numeri alla mano, gli afroamericani delinquono di più o sono condannati di più per reati gravi o medio gravi. E resta il fatto che la popolazione carceraria nera è diminuita in maniera significativa dal 2006 in poi, e questo era un elemento che induceva a un cauto ottimismo, era un indicatore di progresso, diciamo così. Sì. Che rimane e che va bilanciato sugli altri indicatori, tra cui quelli che vediamo oggi o anche i numeri che si ricordava sulle violenze della polizia, numeri che abbiamo in forma sistematica, lo si diceva dal 2015 in poi, una delle conseguenze della vicenda di Ferguson, di St. Louis, in Missouri, nell'estate del 2014. Sì, è incredibile anche questo aspetto, no, professor Del Piero, che per avere statistiche adeguate e circostanziate si debbano aspettare eventi tragici, però forse anche questo è un segno, no, di un'America che si interroga e si osserva, perché osservare i dati evidentemente è un ottimo modo per guardarsi dentro, lo dico da parte della società americana. Grazie mille al professor Mario Del Piero, Sciences Po, esperto appunto di Stati Uniti. Buona giornata e buon lavoro, professore. Grazie, buona giornata e buon lavoro a lei. 349-238-6666. Il vero problema in questo momento è Trump. Com'è possibile che una democrazia abbia un presidente del genere, dove esiste il diritto negli Stati Uniti? Come può una società accettare che i giornalisti siano trattati come delinquenti, ma nemmeno in Afghanistan? E perché i giornalisti non insorgono? Così Claudia, gentile Claudia, chi fa il cronista, chi fa il nostro mestiere, alla fine può denunciare, lo fa con i suoi mezzi, tenendo la telecamera accesa, twittando quando può. E questa è, come si dice, l'arma, no, in dotazione a chi racconta storie. Qualcun altro, rispondendo all'ascoltatore precedente sulla avremmo raccontato le stesse cose con Obama, è lui a rispondere, questo nuovo ascoltatore: Obama non avrebbe mai agito come Trump. E mi permetto di anticipare un futuro tweet, continua l'ascoltatore: la colpa della diffusione del Covid sarà collata alle proteste, appunto agli assembramenti. Intanto c'è anche un altro ascoltatore che ci scrive da Houston, dà uno spunto molto interessante, molto bello, lo prego di articolarlo meglio. Scrive da Houston e dice: mi sono ritrovato con una realtà nella comunità nera molto diversa da quella che percepiamo noi in Europa, e non se ne esce da questa forma di razzismo che è ancora latente, perché è profonda la differenza, vivendo qui si percepisce a pelle. Ci piace ricevere anche questo tenore di messaggi dall'altra parte dell'oceano, ci restituiscono immediatamente anche il polso di quegli ascoltatori che sono immersi nelle realtà che cerchiamo di raccontare. Lo facciamo con ospiti a volte statunitensi, a volte italiani, come il professor Mario Del Piero, che però insegna a Sciences Po. E tra pochissimo vi faremo sentire la voce di David Newhart, giornalista, ex MSNBC, saggista, celebrato giornalista, soprattutto perché ha lavorato sul terrorismo, in particolare un libro di recente pubblicazione in italiano è tradotto da Minimum Fax, l'alt-right, l'ascesa della destra radicale nell'era di Trump. Vi starete chiedendo, e qualche ascoltatore l'ha già fatto: ma non ti ricordi che ha bollato gli antifascisti, gli antifa, con un suo tweet e vuole dichiararle organizzazione terroristica? Scopriremo meglio perché lo ha fatto, secondo gli analisti, ma soprattutto perché non può farlo, perché ci vuole una base legale anche per dichiarare un'organizzazione terroristica in seno agli Stati Uniti. Credo che per avere il quadro completo e capire il fenomeno appena descritto servirebbe avere il numero degli agenti uccisi, così scrive Marco. Proprio nella puntata di venerdì avevamo fatto il confronto ed era assolutamente non paragonabile. Però, gentile Marco, qua stiamo, come si diceva in redazione questa mattina, confrontando le mele con le pere, ma è anche benevolo come paragone. Gli agenti non possono uccidere a sangue freddo, non devono uccidere a sangue freddo, sono i detentori della forza, sono i garanti dello Stato di diritto. Non possiamo assolutamente paragonare il comportamento di chi delinque, di un criminale o di un presunto criminale, con le forze di polizia, che devono, secondo la maggior parte degli Stati di diritto, utilizzare la forza in maniera proporzionale all'offesa recata o ricevuta. E anche negli Stati Uniti tu devi estrarre la pistola e uccidere o usarla se c'è rischio di incolumità per te o per le persone a fianco o per le proprietà a fianco. Quindi è un discorso particolarmente complesso che, se noi riduciamo a questo paragone, francamente credo che andremo a svilire il dibattito. A questo punto io direi facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come vanno le strade italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici, ascoltatori. Un messaggio interessante di uno di voi che ci sta seguendo dalle 16, in cui stiamo cercando, con, lo devo ammettere, grande difficoltà, cercare di capire cosa sta davvero accadendo in queste sei notti di follia, di disordini, di morti, di feriti, di giornalisti che vengono aggrediti e arrestati senza alcun motivo. Dicevo, un ascoltatore la mette su un piano interessante: se questa fosse una nuova primavera statunitense, mutatis mutandis le primavere arabe, beh, questo potrebbe essere, come dire, una chiave di lettura interessante. Ma lo ripeto, è evidente che qui la società americana è arrivata probabilmente a un punto di svolta, è costretta, è forzata dagli stessi manifestanti a interrogarsi su quel peccato atavico, come lo chiamava Biden, come lo ha ridefinito anche il professor Del Pero, questo essersi fondato su differenze di classe, su differenze economiche. Se avremo tempo vi dirò anche un po' di numeri, un po' di statistiche. Per esempio, la popolazione nera è quella più povera, il reddito medio di una famiglia afroamericana è di poco superiore a $41,000, per una famiglia ispanica siamo $51,000 l'anno, il reddito medio di una famiglia bianca supera i $70,000. 349-238-6666 per voi. Vi faccio sentire intanto la voce di David Neward, giornalista, ve lo dicevo, saggista, ha scritto Alt-Right, l'ascesa della destra radicale nell'era di Donald Trump. Perché l'abbiamo contattato? Perché il ministro della giustizia statunitense Barr ha dichiarato che la violenza è stata istigata da gruppi estremisti e questa istigazione costituisce terrorismo interno. A chi si riferiva Barr e cosa significa per un panorama politico, quello statunitense, così dannatamente polarizzato? Sentite. What the Attorney General means when he is talking about extremist groups. Quando il ministro della giustizia parla di gruppi estremisti coinvolti in terrorismo interno, si riferisce proprio agli antifascisti. Donald Trump lo ha detto chiaramente nel suo tweet, incolpando i cosiddetti gruppi antifa delle violenze di questi giorni. Sicuramente c'è stato un coinvolgimento antifascista nelle proteste contro la polizia e negli scontri a fuoco di Minneapolis che hanno fatto scoppiare i disordini. Ma dagli elementi che stanno emergendo finora, chi sta davvero istigando la violenza risultano i gruppi suprematisti bianchi e neonazisti. Si tratta di miliziani radicalizzati online che si sono organizzati e invocano un collasso della società, lo scoppio di una seconda guerra civile americana che molti di loro sperano diventi una guerra razziale. Questa seconda guerra civile, nel loro codice, viene detta Boogaloo. Si sono organizzati per reclutare adepti durante il lockdown. Abbiamo visto gruppi di miliziani comparire armati davanti ai parlamenti di vari stati, minacciando di impiccare i politici e discutendo online non solo su come sparare a poliziotti e politici, ma anche su come invadere le abitazioni dei propri vicini. Sono queste le persone che vogliono incrementare e utilizzare a proprio vantaggio le violenze di questi giorni. Abbiamo visto tanti di loro presentarsi alle proteste e sono facilmente identificabili. Alcuni indossano camicie hawaiane che simboleggiano la loro natura di Boogaloo Boys e di sostenitori di questa seconda guerra civile. Boogaloo Boys or aficionados of this civil war. Questa è l'analisi di David Newhart, è un giornalista, un saggista, una penna formidabile quando si tratta di descrivere movimenti terroristici o movimenti estremisti, soprattutto in seno agli Stati Uniti. Da una parte gli antifa, che Donald Trump in un recente tweet ha detto di voler dichiarare organizzazione terroristica, ma dobbiamo ricordare che non vi è la base legale per farlo, e dall'altra quella che è questa strana galassia di movimenti complottisti, molto spesso riconducibili a esponenti razzisti e suprematisti bianchi che rivendicano una purezza degli Stati Uniti su base etnica. Gli Stati Uniti, scrive un ascoltatore, devono risolvere i loro paradossi: una grande democrazia con una sanità a pagamento, armi al supermercato, eccetera, eccetera, eccetera. E così un ascoltatore che mette in luce quelle che sono le grandissime nevralgie. Ha ragione la sindaca di Atlanta, devono andare a votare anche con tutte le difficoltà per registrarsi. Così Antonio da Udine, che prima scriveva che Biden è troppo debole per battere questo Trump, il peggio di un lato dell'America, sperando che non sia la maggioranza, e facendo un passo in avanti, cercando di capire se quello che sta accadendo questi sei giorni incredibili avranno anche in qualche modo un frutto, benché benefico, elettorale. Allora, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Lei, gentile ascoltatore, però abbia pazienza, non mi può scrivere: insomma, i neri sono i buoni e i bianchi i cattivi, per sintetizzare 40 minuti di faticosissima analisi, perché sennò veramente mi fa sentire stanco, glielo giuro, senza cattiveria. Mi sembra che abbiamo cercato di articolare complessità e non bianco e nero, appunto, per citarla. Però adesso, Roberta Fisani, raccontiamo una storia. When my twin brother Terrence Crutcher was shot and killed, my life changed drastically. You know, when you talk about police brutality and unarmed black men being disproportionately killed by law enforcement, I believe we're in a state of emergency. Questa storia ci porta a Tulsa, in Oklahoma. La voce che avete sentito è quella della sorella di Terrence Crutcher, ucciso da un agente di polizia il 16 settembre del 2016. Crutcher aveva 40 anni, afroamericano, disarmato. 3 anni dopo la sua morte, Human Rights Watch ha svolto un'indagine sul comportamento della polizia nella cittadina, che è un'indagine che, badate bene, è confinata geograficamente in Oklahoma, in particolare a Tulsa, ma ci offre uno spaccato su tutte le dinamiche sulle quali ci stiamo interrogando in questa puntata. Lo studio si è concentrato in particolare sui quartieri settentrionali della città, dove l'80% degli abitanti è di colore, il 35% vive in condizioni di povertà, a fronte di una media cittadina del 17% e con un tasso di disoccupazione del 12%. You can get shot for having a cell phone in your hand. If you can get shot with your hands up, I mean, it's a state of war. Please stay. I testimoni in questo report di Human Rights Watch, come avete sentito, dicono: tu puoi essere sparato, puoi essere colpito da un colpo d'arma da fuoco della polizia anche se sei lì fermo, inoffensivo, a mani in alto. A Tulsa, secondo Human Rights Watch, gli uomini di colore sono sottoposti a violenze da parte della polizia 2,7 volte più dei bianchi. Sono fermati più frequentemente, con la forza, con l'uso dei taser, vengono attaccati con i cani o con spray urticanti. E in alcuni quartieri dove c'è la maggioranza afroamericana, essere fermato per un controllo è 10 volte superiore rispetto ai quartieri bianchi e più ricchi. Questo è un piccolo spaccato che ci arriva dall'Oklahoma, però adesso torniamo alla voce di David Neuwirth, giornalista, saggista, il suo libro Alt-Right, l'ascesa della destra radicale nell'era di Trump. Perché ci soffermiamo anche su questo aspetto? Perché il presidente statunitense, Donald Trump, non ha mai nascosto di flirtare in qualche modo anche con quegli ambienti, però poche ore dopo invece si è scagliato contro questo movimento antifa. Sono davvero così pericolosi e violenti? Non soltanto al punto di essere dichiarati illegali, ma addirittura essere dichiarati organizzazione terroristica. Sentite David Neuwirth. Trump's tweet about Antifa is essentially its attempt to scapegoat them. Il tweet di Trump contro il movimento Antifa è fondamentalmente un tentativo di trovare un capro espiatorio per le violenze. In realtà, al momento, ci sono poche o nessuna prova che gli Antifa siano stati coinvolti nelle violenze o persino nell'organizzazione delle proteste. Ovviamente i rappresentanti di questo movimento stanno partecipando alle proteste perché sono di sinistra e quindi, come d'abitudine, sostengono le proteste per la giustizia razziale. Sappiamo che sono in strada a manifestare, ma non ci sono prove che siano tra gli organizzatori o che siano tra i responsabili delle violenze. Per contro, invece, in alcune occasioni ci sono dei segnali sul coinvolgimento di gruppi di suprematisti bianchi in alcuni episodi di violenza, specificamente in alcuni casi di distruzioni di proprietà privata. Al momento, tuttavia, non ci sono prove complete su molti di questi casi. Quindi, quello che dovremmo fare in questo momento è aspettare fino a quando non sarà possibile indagare su tutto questo e la legge si potrà occupare dei responsabili. Ma non mi pare che il presidente lo stia facendo. Il presidente ha indicato solo questi attivisti di sinistra come capro espiatorio. Ora, è importante fare chiarezza. Antifa non è un'organizzazione, è un movimento. Sono piccoli gruppi di antifascisti sparsi per tutto il paese, ma non c'è un'organizzazione principale. Non hanno un sito internet né un leader o cose del genere. Non è possibile fare il nome di un leader degli Antifa. Questo atteggiamento vago permette a Trump e mi aspetto che inizierà a farlo, di etichettare tutti i suoi oppositori politici come Antifa. Potrebbe arrivare a etichettare Nancy Pelosi come Antifa, ci scommetto. Nancy Pelosi, Antifa, mark my words. Dalla voce di David Newhart abbiamo l'ultimo minuto, alla vostra voce, il nostro affezionato ascoltatore che ci scrive proprio dagli Stati Uniti è preoccupato perché dice c'è almeno un 30% di popolazione che sostiene questo presidente, in effetti gli ultimi sondaggi vedono un Biden sopravanzare Donald Trump, ma non fidatevi assolutamente dei sondaggi, lo ricordate l'ultima volta con Hillary Clinton, come vennero stravolti proprio i sondaggi stessi. Siamo quasi in chiusura, sono ahimè purtroppo tristemente certo che torneremo a occuparci di questa questione negli Stati Uniti, le proteste stanno andando avanti e poi risponderò anche ad alcuni ascoltatori che con un linguaggio irripetibile consigliano di farsi gli affari propri. Gentile ascoltatore, si chiamano diritti e sono universali e prima o poi riguarderanno anche lei. E ne approfitto per ringraziare tutta la squadra di Nessun Luogo, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è domani con una sorpresina, una puntata speciale, e poi ci risentiamo mercoledì. Buona serata da Giampaolo Musumeci.